Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di due libri dedicati a due grandi problemi italiani, il Mezzogiorno e la scuola. Il libro sul Mezzogiorno è di Francesco Del Zio, che abbiamo in linea. Buongiorno Del Zio. Buongiorno. E si intitola La scossa, 6 proposte shock per la rinascita del Sud. Sulla scuola, il libro di cui parleremo è La libertà della scuola, con scritti di Luigi Einaudi e Salvatore Valitutti, curato da Gian Domenico Desiderio. Ma partiamo dal Mezzogiorno e da Del Zio. Del Zio è un giovane, anzi è noto per il suo primo libro, Generazione Tuareg, in cui descriveva, diciamo così, le difficoltà dei giovani di inserirsi in questa società così complicata, così convulsa. Attualmente è Executive Vice President del gruppo Piaggio, è stato direttore dei giovani imprenditori di Confindustria e prima ancora ha fatto anche il giornalista alla RAI, anche se è giovane. Ha già molta esperienza anche sul terreno, perché le è venuta voglia di parlare di Mezzogiorno, Del Zio? Perché ho una grandissima paura, cioè quella che si stia diffondendo sul Sud una specie di rassegnazione etnica, l'idea che i terroni da soli non possono farcela. E siccome i terroni, come io li chiamo nel libro, non possono farcela, allora tanto vale prosciugare qualsiasi intervento pubblico strutturale al Sud, tanto vale rinunciare a qualsiasi politica industriale al Sud, tanto vale evitare di sporcarsi le mani, e questo vale per il governo nazionale, ma anche purtroppo per la Commissione europea, con i problemi del Sud. Il libro nasce da questa grandissima paura e vuole però cercare di invece invertire questa situazione. Per risolvere la situazione purtroppo ci vuole una scossa, cioè ci vogliono delle misure shock, perché il Sud non è mai stato così malmesso dal dopoguerra ad oggi rispetto al Nord. Da 7 anni cresce meno il Sud del Nord, perché ci sono dei segnali dal punto di vista sociale terribili, ne cito soltanto uno. Al Sud ogni mattina ci sono 500.000 giovani che si svegliano la mattina e non sanno cosa fare, sono i cosiddetti NEET, cioè quelli che non studiano, non lavorano e non fanno neanche formazione professionale. Ecco, il quadro è davvero cupo. Per poter uscire da tutto questo, per poter evitare una deriva definitiva del Sud, serve una scossa. Ecco, serve quindi in pratica anche buttare a mare le biblioteche che sono piene di volumi sulla questione meridionale. La questione meridionale è stata una costante del dibattito politico, anche culturale italiano. Qualcosa indubbiamente di giusto e di saggio ha prodotto questo dibattito, però il Mezzogiorno, dobbiamo riscontrare, è ancora lontano, e anzi si allontana per alcuni parametri dalla realtà di un Nord che è molto europeo. Allora dal dibattito culturale forse bisogna passare all'attività politica. Sì, il punto è proprio questo: la politica non deve abbandonare, non deve dimenticare il Sud, e purtroppo invece è esattamente quello che sta accadendo. C'è un fenomeno di cui non si parla: il Sud è diventato negli ultimi anni la Cenerentola d'Europa. Ci sono i famosi fondi comunitari che negli ultimi 10 anni hanno consentito il rilancio sostanzialmente di tutte le aree depresse d'Europa, dall'Irlanda alla Francia del Sud, alla Spagna del Nord-Ovest, alla stessa Grecia. L'unica area d'Europa che non è riuscita a sfruttare in alcun modo il treno dei fondi comunitari è proprio il Mezzogiorno. E questo vuol dire deriva definitiva, perché i fondi comunitari termineranno in maniera definitiva nel 2013. Ecco, le paure sono tantissime, come appunto si può capire molto bene leggendo il libro, e a queste va aggiunta però un altro grande timore, cioè quello che i soldi pubblici finora spesi siano stati sostanzialmente buttati. Il libro fa degli esempi incredibili di sprechi delle regioni, non solo dello Stato. Faccio solo un esempio: le regioni hanno la competenza in materia di turismo e spendono, alcune regioni del Sud, per esempio la Basilicata, per attrarre turisti in quelle terre, più di quanto gli stessi turisti che poi arrivano in quelle terre, per esempio in Basilicata, non spendano sul posto. Questo è davvero un paradosso incredibile che la dice lunga su come la questione meridionale sia stata affrontata finora. Quindi, in estrema sintesi, si può dire che c'è una classe politica che va cambiata. C'è una classe politica in parte marcia, in parte incapace. Ci sono delle tecnostrutture, soprattutto nelle regioni, che non hanno ancora compreso il loro ruolo e non hanno le competenze per farlo. C'è una sola piccola speranza, ed è la generazione dei trentenni e dei quarantenni, che sono emigrati dal sud, sono quelli che io chiamo intelterroni, sono fuggiti dal sud, hanno appreso i valori del merito, del mercato, della competizione fuori dal sud e oggi potrebbero o tornare giù, se ne hanno la possibilità, o semplicemente accendere i fari del dibattito con le chiavi giuste però sul meridione, almeno per abbattere quella rassegnazione etnica di cui parlavo all'inizio. E quindi è un compito e una responsabilità anche di tutta l'Italia cercare di aiutare il Sud ad aiutarsi, a far venire fuori queste grandi risorse che il Sud ha e che sicuramente possono servire a crescere, a far diventare lo sviluppo una parola concreta e non solo un obiettivo lontano come è stato fino adesso. Io ringrazio Francesco Derzio che ci ha parlato del suo libro La Scossa, 6 proposte shock per la rinascita del Sud, è un libro edito da Rubettino, ha 94 pagine e costa 12 euro. Grazie Derzio, grazie a quanti ci hanno seguito e continuiamo parlando di scuola e lo facciamo sulla base di un libro che raccoglie gli scritti di Luigi Einaudi e Salvatore Valitutti proprio sul tema scolastico. Questo libro è stato curato da Gian Cristiano Desiderio. Buonasera, dottor Desiderio. Buonasera. Giornalista, docente, è stato direttore del Sannio, cronista parlamentare di Libero, vice direttore dell'Indipendente, un grande appassionato dei temi di carattere, possiamo dirlo, liberale, professor Desiderio? Sì, possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Anche perché i due autori di cui sono raccolti gli scritti in questo libro, appunto Luigi Einaudi e Salvatore Valitutti, sono tra i più alti esponenti della tradizione liberale. Allora, com'è nata l'idea di ripubblicare questi testi di queste due personalità? Beh, l'idea è nata in maniera del tutto spontanea, nel senso che, lo diceva prima lei, il tema della scuola è un tema quasi di cronaca, no? di cronaca quasi quotidiana, siccome sono ormai circa 10-15 anni che si parla forse un poco troppo della necessità di riformare la scuola italiana, allora mi sono detto forse vale la pena di riproporre alcune pagine esemplari di Einaudi e di Valitutti che parlano di quella che è l'unica vera e necessaria riforma della scuola italiana. E allora ce l'anticipi qual è quella vera, unica e necessaria riforma della scuola italiana? Beh, è la necessità di abolire il valore legale dei titoli di studio, cioè del diploma e della laurea. Che cosa significa questo? Einaudi utilizzava questa espressione, diceva: ho passato troppi anni della mia vita nella scuola per non sapere che i diplomi valgono meno dei pezzi di carta sui quali sono scritti. Che cosa intendeva dire Einaudi? Intendeva dire che questi diplomi non hanno il valore scolastico che noi gli vogliamo riconoscere, ma hanno un altro valore, cioè hanno il valore legale. Il valore legale ha un doppio valore, ha un valore da un punto di vista scolastico, nel senso che uniforma la scuola dal punto di vista della didattica, dal punto di vista dei programmi, dal punto di vista della docenza e quindi permette ad uno Stato di poter gestire e controllare tutte le scuole dal centro, cioè dal Ministero. E poi il valore legale ha un altro valore che è extrascolastico, nel senso che attraverso il diploma si decide l'accesso agli uffici pubblici e agli uffici delle aziende, cioè in sostanza a quella ampia sfera che riguarda sia lo Stato sia il parastato. Il problema dove sta? Il problema sta nel fatto che il diploma in questo modo non ha più il valore che deve avere, cioè un valore che riguarda la scuola e gli studi, ma ha semplicemente un valore legale, cioè quello che noi chiamiamo il famoso pezzo di carta. E questo ha due effetti: da una parte appiattisce la scuola, dall'altra rende sempre più evidente un certo controllo dello Stato sulla scuola. Purtroppo sì, il punto di tutta questa vicenda, se noi la vogliamo portare a quella che è la sua essenza, è questa qui, è molto semplice. Qual è la fonte dello studio, la fonte della scuola, la fonte, per usare una parola un poco grossa, del sapere? La fonte del sapere non è il preside, non è il rettore, non è il popolo, la sovranità, lo Stato, ma la fonte del sapere per forza di cose non può che essere il sapere stesso, cioè la libertà. Se noi invertiamo questi due concetti, viene fuori una cosa un po' obbrobriosa, cioè viene fuori che lo Stato controlla la cultura, lo Stato fonda la cultura, ma deve essere esattamente l'inverso, cioè è invece la cultura che deve fondare lo Stato. Cosa significa questo? Significa che noi dobbiamo uscire da quello che è il monopolio statale dell'istruzione. Molto spesso quando si dice questo la critica che viene mossa è questa qui, l'anticipo, cioè ma in questo modo si distrugge la scuola pubblica italiana. No, assolutamente non è vero. Significa semplicemente che non dobbiamo avere un unico ordinamento scolastico, cioè che è quello dello Stato, ma dobbiamo avere due ordinamenti scolastici, e cioè un ordinamento in cui ci sono le scuole libere e poi un ordinamento in cui ci sono le scuole dello Stato. In questo modo lo Stato ritorna a fare quello che dovrebbe fare da sempre, dall'origine, cioè garantire il diritto allo studio. Questa prospettiva una competizione tra scuola pubblica e scuola privata avvantaggia anche la scuola pubblica, perché non ha più la garanzia appunto della protezione comunque del valore legale del titolo di studio e quindi deve cercare di essere credibile, autorevole, formando i giovani e preparandoli ad entrare sul mercato del lavoro o comunque nella società. Sì, certo. Lei ha utilizzato il termine competizione, che è sicuramente un termine giusto. Io però utilizzerei un altro termine, cioè che è quello della integrazione o della complementarietà. Cioè avremmo due ordinamenti scolastici, uno che è quello, come dire, che nasce spontaneamente dalle forze della società, e poi abbiamo un altro ordinamento che è quello dello Stato. In questo modo lo Stato, lei ha ragione, recupererebbe autorevolezza. E perché recupererebbe autorevolezza? Per un motivo molto semplice, perché dovendo occuparsi di meno cose può riuscire a fare meglio le poche cose che deve fare. Viceversa, oggi lo Stato, dovendosi occupare di tantissime cose, non riesce a fare bene le tantissime cose che deve fare. Ma lei lo sa quante sono le persone che fanno capo al Ministero della Pubblica Istruzione? Tante, sicuramente tante, non vorrei dire troppe. Sono 1.300.000. Ma le sembra una cosa possibile questo? Ecco, con questo dato, che forse è significativo di una realtà sicuramente complessa in cui tra l'altro non ci sono soluzioni facili, ma leggere questi scritti di Luigi Einaudi e Salvatore Valitutti, raccolti da Gian Cristiano Desiderio nel libro La libertà della scuola, è certamente utile. Edito da Liberi Libri, sono 100 pagine per 16 euro. Abbiamo parlato in questa puntata anche del libro di Francesco Delzio, La scossa, 6 proposte shock per la rinascita del Sud, edito da Rubettino, 90 pagine per 12 euro. Ringrazio Fabio Cantadori in regia e Anita Panizza in redazione. Ringrazio quanti ci hanno seguito. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Buona serata.